se io e te litighiamo su una cosa, io vado da mia mamma, io non ho detto mi vado a litigare. come un orto, non so se conoscete il progetto.